Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Francesco Muti, 48 anni, nato a Parma, sposato con una figlia, 26 anni amministratore delegato dell'azienda di famiglia, da allora si dedica alla passione di casa, il pomodoro. Ama lo yoga, la buona tavola, il buon vino, ma soprattutto ama Anita, uno dei suoi tre cani. Pronipote del fondatore Marcellino, figlio del presidente Marcello, quarta generazione della famiglia Mutti che controlla il 100% del capitale. Ha portato i ricavi dell'azienda a risultati da record, più 8% rispetto al 2014 e un fatturato netto previsto per il 2016 intorno ai 245 milioni. Allora, dottor Nutti, siamo a fine 2016, la previsione per il 2016 è riuscita a confermarla? Assolutamente, speriamo anche in qualcosa di più, visto che abbiamo fatto una splendida campagna di raccolta. Ah, bene. Ma per fatturare 245 milioni o qualcosa di più, quanti pomodori sono arrivati nei vostri stabilimenti? Tantissimi, e senz'altro la grossissima difficoltà è trovare materie prime eccellente. Infatti ci arriveremo. La Mutti è da più di 100 anni leader italiano nella lavorazione dei pomodori. Ma tutto inizia nel 1850 con Giovanni Mutti, agricoltore, e di lui dicono che precedette di 10 lustri il sistema siderale. Ma cos'è il sistema siderale? Oggi tutta la produzione nostra è a lotte integrata e la base c'è una rotazione costante dei campi in cui viene coltivato il pomodoro, in modo tale che ogni coltivazione dia e sottragga eventualmente al terreno sostanze nutritive, continuando a ruotare ogni 4 anni mantiene in assoluto stato. Quindi questo stato è il siderale? Assolutamente sì. Ma perché da coltivatori di pomodori siete passati a lavorarli? Si guadagna di più, immagino. Ma a Parma, inizi fine 800, inizi 900, c'è stato veramente un movimento molto importante per la prima coltivazione e poi trasformazione del pomodoro per poterlo conservare durante tutto l'inverno. Cioè, conviene, insomma. Anche. È stato la logica conseguenza, perché sennò si sarebbe avuto un raccolto solo per i 60 giorni. Senta, dottor Mutti, insomma, un quintale di pomodoro quanto costa? Un quintale al chilo, stiamo parlando di circa 10 centesimi, 12 centesimi. E il prodotto a fine lavorazione invece a quanto si vende? Il prodotto si vende a di più, occorrono diversi chili di pomodoro per fare ad esempio un chilo di concentrato, ma soprattutto occorre tutto quello che è l'imballaggio, la selezione, i controlli. Quindi questo cambia notevolmente. Il prezzo. Poi inevitabilmente il prezzo alla fine è significativamente diverso. Senta, ma da dove arrivano i pomodori che lavorate oggi? Noi abbiamo due stabilimenti, quello al nord Italia, il pomodoro proviene dalla pianura padana, ne abbiamo un altro a Oliveto Citra, e il pomodoro proviene prevalentemente dalla Puglia. Quindi sono tutti pomodori rigorosamente italiani? Assolutamente, rigorosamente 100% italiani. Senta, le faccio sentire per un servizio delle Iene dello scorso anno proprio sulla provenienza dei pomodori. Ma secondo voi, quando vi comprate una bella scatoletta di pelati con su scritto prodotto in Italia, dentro cosa c'è? Perché se uno legge prodotto in Italia, gli viene da pensare pomodori italiani. E invece no! Per cui, se c'è scritto prodotto in Italia, può voler semplicemente dire che l'hanno solo confezionato in Italia. E allora, se non arrivano dai nostri campi, da dove vengono sti pelati? Il paese da cui importiamo più pomodori è la Cina! Un triplo concentrato che arriva in Italia in fusti da 200 kg. Da 120.000 tonnellate che arrivano in Italia, una volta rimpastate, escono circa 800 milioni di chilogrammi di prodotto finito. Quindi 120.000 tonnellate di concentrato di pomodoro che arrivano e diventano diluite 800 milioni di chili di prodotto finito. Praticamente tutti quelli che fanno salsa di pomodoro in Italia li usano, allora è così? Allora, noi facciamo 100% italiano e non voglio mettermi a fare pubblicità ai miei concorrenti, ma la maggior parte di questi utilizza pomodoro solamente italiano. Quello che è una parte di pomodoro che viene importato viene poi esportato verso l'Africa. Quindi non siete delle mosche bianche? No, non siamo delle mosche bianche. Voi da 5 anni, se so bene, in collaborazione con l'Università di Ispra, lavorate a un progetto che dovrebbe individuare senza dubbio, senza nessun dubbio, la presenza di materie prime non italiane. Ecco, a che punto siete con questo progetto? Noi abbiamo presentato 3 anni or sono al Senato questa ricerca che permette, appunto, partendo dal prodotto finito, di identificare il luogo di provenienza della materia prima. E questo può essere un ausilio, naturalmente. Con i droni si riesce a... No, con i droni non si riesce a fare, ma si riesce a fare andando ad analizzare alcune terre rare che cambiano in base a dove il pomodoro pomodoro è stato coltivato. I droni servono per un'agricoltura di precisione, quindi nel tentare di avere sempre di più un controllo. Per fare un ottimo pomodoro occorre veramente un controllo quotidiano lungo tutti i campi per capire che cosa sta succedendo. Quindi in qualche modo siete diventati protettori del pomodoro made in Italy, insomma. Beh, lo siamo sempre stati, protettori del pomodoro made in Italy, e vogliamo continuare assolutamente adesso. E lo Stato che fa? Non protegge abbastanza? Ma non è vero, lo Stato deve fare le cose giuste, e credo che da questo punto di vista sia molto importante il livello di controlli rispetto a quello che viene eventualmente importato in Italia. Poi proibirlo, pur facendo solo il 100% italiano, diventa una cosa complessa. Ecco, ma per sapere che sono fatti da pomodori italiani al 100%, cosa ci deve essere scritto? Quando c'è scritto 100% italiano e chi lo dice ha una credibilità, credo sia più che sufficiente. Ma c'è un altro dato che mi ha colpito: il 71% del pomodoro cinese targato Italia, l'ha detto anche lei, in realtà poi torna all'estero, spesso in Cina, in Africa, dove viene spacciato anche per un'eccellenza tricolore. Insomma, ci facciamo anche un po' del male da soli. Non so se ci facciamo del male. Quello, il mercato africano è sempre stato un mercato italiano. Negli anni progressivamente è avvenuto questo cambio, per cui alcune aziende importano pomodoro cinese che poi viene esportato verso paesi dove non credo sia il made in Italy il Ma vero gli valore. Assomiglia, qualcosa che gli assomiglia. Credo sia molto una competizione sul prezzo molto importante. Senta, ma vi è mai capitato di imbattervi in salse di pomodoro che richiamavano il vostro marchio, ma taroccandolo? Sì, ci è capitato in Russia un paio di anni or sono, con un marchio esattamente come il nostro, una scatola esattamente come la nostra. Oggi siamo passati alla litografia anche sulle nostre scatole di pelato da 3 kg. Ma chi lo faceva questo? Non siamo riusciti a identificarlo, però siamo riusciti a interrompere rapidamente come? Il traffico. Beh, abbiamo agito sulle autorità, abbiamo cominciato, ed essendo a probabilmente russe stato italiane? Scoperto entrambe, più italiane. Che russe, su russe è difficile parlare con le autorità russe. Senta, ma se da una parte la vostra filosofia è quella di mettere al centro il rapporto con la terra, con gli uomini, dall'altra usate i droni. Ma cosa vi servono i droni? Ma assolutamente questo non pregiudica l'uomo, il tentare di utilizzare degli strumenti. No, ma utili. Io volevo capire il drone cosa il serve. Il drone ci permette di controllare ogni singola fila per capire meglio qual è lo stato di necessità, ad esempio, dell'acqua, qual è il momento giusto di maturazione, che cosa sta avvenendo. E aiutano. Assolutamente, perché hanno comunque una capacità che è molto superiore a una velocità e una capacità di controllo che è molto superiore rispetto a quella di una persona normale. Senta, da più di 100 anni voi lavorate pomodori coltivati prevalentemente nella provincia di Parma, nel cuore dell'Emilia, nella Food Valley italiana cosiddetta. Ma i pomodori non hanno bisogno di caldo e di tanto sole più che di nebbia della pianura? Allora, per fortuna da noi non c'è la nebbia, specie d'estate. Il pomodoro, guardi, assomiglia molto a un essere umano, quindi ama delle giornate calde ma non caldissime. Quindi il pomodoro, se si va oltre i 32-34 gradi, soffre, e ama delle notti abbastanza fresche, perché l'escursione termica è quella che permette di generare gli zuccheri, di generare poi il licopene, che è quello che dà il colore rosso al pomodoro. Ama un clima secco e leggermente ventilato. Quindi la pianura padana va bene. Dice. È un luogo molto importante di coltivazione. Ma è diverso un pomodoro coltivato in pianura padana da uno coltivato al sud? Sono molto spesso diverse le qualità. Quindi al sud abbiamo un pomodoro che è particolarmente adatto per il pelato piuttosto che il ciliegino. Al nord abbiamo dei prodotti che sono molto più ricchi per prodotti come le polpe, i concentrati o i datterini. Prodotti diversi. Sì, cambia il microclima, incide in modo importante sul quello tipo di pomodoro. Ecco, voi l'ha detto, avete al sud uno stabilimento in provincia di Salerno. Qui i campi di pomodori però hanno anche un altro problema, oltre a essere diversa natura il pomodoro, che è quello del caporalato. Voi avete mai avuto problemi con qualche vostro fornitore locale? Facciamo tantissimi controlli, abbiamo cominciato a chiedere tutta la raccolta esclusivamente meccanizzata, chiediamo i DURC, i documenti di unità unica contributiva, andiamo, e soprattutto questo è l'elemento fondamentale, a fare costantemente dei controlli in campo. Quindi lei si sente abbastanza sicuro contro il caporalato? Ci sentiamo abbastanza tranquilli, poi credo che l'attività che deve essere svolta non è solamente quella da parte delle aziende, ma dovrebbe essere un costante controllo, in questo caso da parte dello Stato, perché anche le aziende, perché sicuramente, però sono nei vostri campi. Sicuramente, non sono nei nostri campi. No, vostri campi, ma insomma per voi. Sicuramente, però per eliminare, lì va eliminato alla radice il problema e certo. Per poterlo fare occorre un'opera sistemica da parte dello Stato. Ecco, ma la meccanizzazione della raccolta del pomodoro, cioè la sostituzione con le macchine dell'uomo, ha certamente facilitato, eccetera, ma non ha anche, non rischia di incidere sulla qualità del prodotto, non lo spiaccica, non so come no dire. Assolutamente. Allora, io quando ero piccolo, come tanti ragazzi della mia generazione, ho fatto la raccolta del pomodoro ed è un mestiere che abbandonare non è una cosa necessariamente brutta. La meccanizzazione al nord Italia è intervenuta verso la metà degli anni Ottanta, al sud Italia è molto presente già e senz'altro non danneggia il pomodoro, danneggia. Perché tutte le tecnologie sono state sviluppate per proteggere la bacca. Senta, comunque in questi giorni dovrebbe essere discusso al Senato il decreto legge che contiene le norme di contrasto al caporalato. Quindi sostanzialmente si propone di allargare la responsabilità al datore di lavoro. Chi sfrutta sarà responsabile penalmente. Lei teme qualcosa per i suoi fornitori? Ma penso no. Di no, proprio per i controlli che facciamo. Mi sembra comunque assolutamente corretto questo indirizzo. Senta, il prodotto che ha rivoluzionato la storia della vostra azienda è stato lanciato negli anni 50, il famoso tubetto da ditale, così si chiama. Perché si chiamava tubetto da ditale? Che vuol dire? Perché il coperchio era a tutti gli effetti un ditale e veniva utilizzato dalle massaie allora come ditale. Ah, cioè si svitava e diventava ditale. Si svitava e diventava un ditale. Oggi come geniale. Oggi è desueto, tanto cioè, per usare un termine consono con quello che era un regalo, diciamo. Assolutamente, insomma, era un primo marketing. Più un primo marketing. Assolutamente. Ma come nacque l'idea di mettere il pomodoro nel tubetto del dentifricio? Ma nacque perché a quei tempi non vi era la disponibilità dei frigoriferi normalmente nelle case degli italiani, quindi un imballaggio che potesse essere richiuso senza assorbire aria permetteva un mantenimento perfetto anche senza il frigorifero stesso, cosa che non consentiva la scatola. Ma oggi qual è la novità di Casa Mutti? Ma le novità sono veramente tante. Oggi stiamo lavorando tantissimo dal punto di vista varietale per riuscire ad avere sempre delle varietà sia riscoperte dal passato, sia varietà con caratteristiche e doti organolettiche, cioè, di gusto, che possano costantemente migliorarsi. Ma è vero che per mettere, per esempio, appunto la nuova salsa di datterini sono stati necessari 2 anni di test? Un po' di più. Di più? Un po' di più. Lì in effetti la grossa difficoltà nasce dall'aspetto varietale, quindi selezionare una varietà, svilupparla, controllare che nel tempo sia effettivamente idonea, abbia questa elevata parte zuccherina che rende... Quindi è un processo complicato di messa a punto. È semplicissimo perché stiamo parlando di ritmi naturali, però dobbiamo ricordarci che proprio perché sono ritmi naturali noi abbiamo una raccolta per l'anno, quindi è un mestiere semplice, esatto, che richiede per però tanta pazienza. Ecco, proprio per il sugo dei datterini, voi avete scelto una frase di Trilussa: la felicità è una piccola cosa. Poi dopo Trilussa avete affidato il vostro marchio alle parole di un altro poeta, di Neruda. Senta qua. La strada si riempì di pomodori. Mezzogiorno, estate, scorre per le strade il sugo. In dicembre il pomodoro invade le cucine. Si siede riposato tra i bicchieri, le saliere azzurre. Affonda il cucchiaio nella sua polpa vivente. È una rossa viscera, un sole fresco, profondo, inesauribile. Si lascia cadere l'olio, il pepe, il sale. Sono le nozze del giorno. Insomma, lavorare il pomodoro è poesia. Assolutamente sì, ma l'ha detto anche Neruda. Quando ha investito in pubblicità? Non tanto, devo dire, la cosa che ci soddisfa di più è che negli 80 paesi in cui siamo presenti abbiamo delle crescite fortissime, pur non facendo assolutamente nel 90%, un passaparola. Veramente credo che avere lavorato tanto sulla materia prima negli anni passati... Adesso vi paga. Sì, oggi si sta pagando. Senta, tanto. Ma c'è una pubblicità di un suo concorrente che avrebbe voluto fare lei, che gli piace molto? No. Vabbè, intanto non me lo direbbe mai. Ma come si fa a continuare a crescere mantenendo un'alta qualità con una materia prima appunto che di fatto è limitata, senza ricorrere ai pomodori cinesi? Pensi che la difficoltà della crescita molto spesso nasce proprio da quello, cioè nella quantità, come le avevo detto all'inizio, pensate di riuscire a fare un più 8%, pensiamo di riuscire a fare di più perché quest'anno abbiamo avuto una buona stagione. Splendida e quindi è veramente riuscire ad approvvigionarsi della materia prima, sì, rispettare la natura e riuscire con connessa a sviluppare un ottimo prodotto. Quando facciamo la raccolta, riusciamo poi a venderla. Senta, lei è entrato in azienda che aveva meno di 30 anni. Come è avvenuto il passaggio generazionale con suo padre? Ma credo sia avvenuto grazie alla condivisione di un progetto, che il pomodoro andava ripensato dall'inizio, quindi cominciare a valorizzare la nostra filiera, i nostri agricoltori, ha fatto questa proposta. La materia prima, sì. E da dove ha iniziato? Beh, ho cominciato a investire tantissimo sui nostri agricoltori, pagando di più la materia prima, premiando tanto che riusciva a portarci perché dei miglioramenti qualitativi. Ripustava. No, era già una filosofia dell'azienda, però quello che è stato fatto è enfatizzarla in modo molto importante, quindi cercare non solamente di rispettare il contratto, ma proprio dare dei premi. Il pomodorino d'oro, puntare, se posso, puntare è veramente puntare sulla qualità del rapporto con la persona e sul miglioramento costante. Senta, a proposito di passaggio generazionale, faccio sentire cosa mi ha detto in un faccia a faccia qui Daniele Ferrero, amministratore delegato della Venchi Unica. È vero che nella sua azienda è vietato per statuto assumere consanguinei? Allora, più che per statuto, è un codice etico che ci siamo dati ed è vietato ai dirigenti, consigli di amministrazione e agli azionisti. Quindi se uno dei suoi tre figli domani le chiedesse di occuparsi dell'azienda, lei glielo vieta? Assolutamente no. Ecco, se Mutti avesse le stesse regole, lei non sarebbe qui oggi. Secondo lei è giusto o sbagliato questo atteggiamento? Credo sia corretto un processo di selezione di chi deve guidare l'azienda, al di là di quello che può essere un elemento di sangue. Però quando entrano i figli poi diventa complicato. Può essere molto difficile, in alcuni casi sono dei no molto formativi. Se la persona non dimostra in modo sufficientemente chiaro di avere tutte le doti, credo sia molto meglio affidarla a un manager. Parliamo di lei. Sua figlia ha 21 anni, cosa e dove studia? In questo momento sta facendo la Cattolica, il terzo anno di economia. Un domani lei lavorerebbe in azienda? Un domani è la sua scelta e la scelta dell'azienda. Insomma, lei lavorerebbe, mi pare di capire. Senta, da poco è morto Bernardo Caprotti, che era un grande imprenditore, che però in qualche modo invece ha saputo dir di no ai figli in azienda. Ha fatto bene, Beh, senz'altro è stato un grandissimo imprenditore. La lotta purtroppo che c'è stato all'interno della famiglia credo l'abbia vissuto lui con i figli. Sono delle condizioni veramente complesse di cui parlare. È stato un grandissimo imprenditore. Senta, dottor Nutti, solo nell'ultimo anno sono 110.000 ragazzi che se ne sono andati dall'Italia per cercare fortuna all'estero. Il presidente Mattarella ha detto facciamo ritornare, ma come? Beh, senz'altro l'Italia dovrebbe cominciare a pensare a ripartire con una progettualità di lungo termine. Questo è l'unico modo per cominciare veramente a essere di nuovo un paese che può richiamare, quantomeno può trattenere le proprie intelligenze. Senta, dottor Mutti, ma questo governo sta facendo abbastanza per i giovani? Secondo lei il Job Act funziona o non funziona? Sta facendo alcune cose. Il Job Act, a mio avviso, funziona ed è senz'altro un notevole passo in avanti. È costato caro, è stato una idea a termine. Sì, ma io credo che la parte più importante sia svincolare da un patto eterno e avere delle regole chiare nel momento in cui ci deve essere una separazione tra aziende del lavoratore. Questo è la parte, a mio avviso, fondante del Job Act. Cioè le tutele crescenti, diciamo. Sì, assolutamente, sono un grande passo in avanti. Una definizione chiara per cui si capisce quali sono gli spartiacque. Se, e voi state facendo qualcosa in questa direzione? Ma noi stiamo assumendo tante persone. Sì. L'azienda sta crescendo tantissimo. Quanta gente lavora da voi? Da noi in questo momento sono circa 150 persone fisse e ne abbiamo assunto una ventina negli ultimi 12-14 mesi. Mediamente noi abbiamo un'età media decisamente bassa. Puntiamo molto sui giovani. I giovani sono un grandissimo valore. Certo. Senz'altro occorrono delle aziende che hanno una progettualità di crescita e naturalmente la crescita poi crea posti di lavoro. Senta, ma le piace Renzi, quindi? Sì. Ma credo che Renzi sia un politico che oggi sta facendo alcune cose. Si può sempre fare di meglio, senz'altro avere una visione di lungo termine piuttosto che estemporaneità è il grande passaggio tra politico e statista. E lui ce l'ha o no? Ogni tanto. Al referendum vota sì o no? Voto sì. Perché? Beh, sono assolutamente convinto che una maggior snellezza nella parte di approvazione delle leggi sia oggi come oggi un dovere. Noi siamo uno Stato che si muove con grandissima lentezza. Insomma, in un mondo sì che contro corre la burocrazia, sperando che si limiti. Sì. Auguri. Senta, ho letto che lei ama la buona tavola e il buon vino. Ma sa anche cucinare? Sì, cucino. Sì, che sì. Cosa? La ricetta migliore a base di pomodoro qual è? Ma guardi, quando metto il pomodoro sono sempre in festa, quindi mi viene assolutamente, assolutamente. Poi non lo mangio quotidianamente perché non voglio mai stancarmi e voglio sempre avere questa riscoperta quasi quotidiana. Senta, non è ancora arrivato al caffè al pomodoro? No, al caffè al pomodoro non no, lo usiamo in tantissime salse, si potrebbe dire. E la ricetta migliore a base di pomodoro che lei fa qual è? Ma guardi, il ragù alla napoletana è senz'altro un piatto spettacolare che richiede tanto tempo e non può anche in questo caso essere quotidiano, ma è un piatto meraviglioso fatto con il concentrato di pomodoro che è l'antesignano proprio del pomodoro. E con che vino lo berrebbe? Beh, in questo caso decisamente andrei su un piemontese importante. Tipo? Ma forse un Barolo potrebbe essere ancora un abbinamento sopportabile. Il Barolo è meraviglioso, è sempre di difficile bevuta, di complesso bevuta più che difficile, quindi occorrono dei piatti molto importanti. È molto forte, sì, decisamente. Senta, ma a proposito di pubblicità, se non ha ancora avuto un'idea per il suo prossimo spot, mi permetto di dargliene una io. È una canzone di Gino Paoli, gliela dedico. Quando vedo maturare i pomodori, dico, pensa tu cosa sarebbe fare un piatto di pasta senza i pomodori. Vabbè, partiamo di qui la prossima volta allora. Assolutamente, tanto l'importante è trovare sempre un filo rosso che ci guidi. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici Invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Mix 24. Buongiorno, ben trovati a Mix 24. Un grande chef come Pierangelini diceva che il piatto più difficile da fare al mondo è un piatto di spaghetti al pomodoro, e quindi diciamo che Mutti potrebbe essere un ingrediente utile. Intanto il referendum del 4 dicembre si avvicina e la discussione tra i sì e i no si fa sempre più accesa. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Giovanni Guzzetta, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e coordinatore del comitato Insieme si cambia. Ecco, professor Guzzetta, lei è per il sì al referendum, perché? Perché lo dobbiamo ai costituenti. Quando la Costituzione fu approvata, nell'ultima seduta i costituenti, nel consegnarla al Paese, dissero che avevano fatto un buon lavoro, ma che consegnavano la Costituzione alle generazioni future perché la cambiassero lì dove i tempi avrebbero richiesto di cambiarla. Ecco, secondo me i tempi sono ormai maturi, sono 40 anni che se ne parla, è una riforma di manutenzione straordinaria, niente di rivoluzionario, semplicemente l'aggiornamento di una Costituzione per renderla adeguata a quella delle grandi democrazie europee. Senta, e qual è il punto più qualificante del suo sì? Ma guardi, senz'altro la riforma del Parlamento. Sono state fatte tante riforme della Costituzione, ma il Parlamento, cioè il cuore dell'architettura costituzionale, non si è mai riuscito a toccarle. Noi abbiamo due grandi anomalie nel nostro sistema. La prima è che abbiamo un bicameralismo perfetto, cioè due camere che fanno esattamente la stessa cosa e non esistono eguali al mondo, e non è un caso, perché il bicameralismo perfetto produce lentezze e produce instabilità dei governi che debbono cercare la fiducia di due camere e non di una sola camera, come accade in tutto il mondo. La seconda anomalia è che siamo l'unico paese al mondo che, pur avendo un sistema di regioni e quindi di articolazione territoriale, non ha una camera che rappresenti gli enti territoriali. E qual è la ragione del no, invece, che le sembra interessante, sulla quale si sarebbe potuto o si potrebbe lavorare? Ma guardi, io trovo abbastanza sorprendente che una delle ragioni del no sia perché questa riforma è stata approvata da un Parlamento da un governo il cui Presidente del Consiglio non è eletto dai cittadini, dimenticandosi che con la Costituzione attuale nessun Presidente del Consiglio è eletto dai cittadini. Se i sostenitori del no veramente pensano questo e volessero pensare a un futuro, ad un'ulteriore riforma per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica, mi troverebbero totalmente d'accordo. Lei crede che alla fine si riuscirà o no a trovare un accordo sulla legge elettorale? Ma io penso che il buon senso senso dovrebbe far dare una risposta positiva, anche perché se non lo farà il Parlamento lo farà la Corte Costituzionale con gli strumenti limitati che c'ha, e io penso che sia responsabilità della politica e dei cittadini che esprimono la politica attraverso le elezioni decidere quale legge elettorale fare e non lasciare che siano gli organi giudiziari a doverlo necessariamente fare. Sì o no? Luca Telese, giornalista per il Comitato del No. Ecco, Telese, perché no? Perché è una riforma che mi sembra fatta male, scritta male, ma malgrado questo non innocente e in realtà pericolosa. Quindi alcune regole scritte pasticciate non cancellano il famoso bicameralismo, producono un nuovo bicameralismo asimmetrico e pasticciato. Senta, ma qual è il punto più qualificante del suo no? Che facendo un gioco d'apprendisti stregoni si crei un Parlamento in cui ci sono 100 voti di senatori che non rispondono a nessuno, rispondono solo alla politica, sono non pagati, vanno a Palazzo Madama una volta al mese, non capiscono nulla di quello che fanno, eppure hanno il voto su questioni determinanti come le riforme costituzionali e le leggi europee. Allora o non fanno niente e allora possono essere anche dei visitatori, o se fanno qualcosa devono essere consapevoli di quello che fanno, perché il Senato costa 2,5 miliardi a legislatura. Senta, e qual è la ragione del sì invece che le sembra interessante, sulla quale si potrebbe lavorare? Mi sembra che la cosa interessante fosse l'idea di superare il sistema bicamerale e quindi era molto sensato porsi questo problema. E o lo fai drasticamente o non lo fai. Quindi cancellare tutto il Senato era un'ottima argomentazione, sarebbe stata un'argomentazione molto forte e difficile da superare. Se alla fine si riuscirà a trovare un accordo sulla legge elettorale invece, le aperture sono tante. Credo proprio di no, per un semplice motivo: per fare quella legge elettorale Renzi ha fatto lacrime e sangue, si è dimesso un capogruppo, sono stati sostituiti 12 parlamentari, fra cui un ex segretario di partito, Bersani, in commissione, perché non ci dovevano essere dubbi sulla legge elettorale. L'hanno fatta, l'hanno voluta, hanno persino dei sostenitori autorevoli del sì, come Napolitano, che dicono che andava male se a 10 giorni, 15 giorni dal voto dici ma forse potremmo cambiarla, non sei credibile. Quindi non ci crede. Non ci credo e non si cambierà. Sì o no? Sì o no? 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, per l'SMS. Allora, Pietrangelo, che ci fai ascoltare oggi? Eccolo. Allora? E allora Ferdinand Porsche, l'ingegnere delle rotondità perfette, quindi il disegnatore del Maggiolone, ha voluto questo brano, ha fatto una dedica ben precisa e vengo a leggerla. Dice: la capote è aperta, l'acqua si è alzata e le onde hanno spazzato via la corona. E la tua? Questo ha detto Porsche. Ferdinand, il costruttore del Maggiolone. E poi delle Porsche. E delle Porsche, sì. Il Maggiolone l'ha inventato per Hitler, se non mi ricordo male. E non ci avventuriamo. Non ci avventuriamo, va bene. Vai Mario. Sì. Abbiamo cominciato malissimo. Ogni tanto bisogna dimenticarsi quello che si sa. No, soprattutto dovremmo. Anche perché c'è l'Inquisizione. No, dovremmo anche dimenticarci che siamo in diretta in radio. Vabbè, vai, vai. Qualche migliaio di ascoltatori. Allora, questi sono i REM, tanto per cominciare, vabbè. E Giovanni, voglio fare giusto un sunto con voi, perché insomma, di cose ne abbiamo dette tante in questi mesi di campagna elettorale. Hanno sparato le ultime cartucce. Parliamo ieri dell'America, naturalmente. Sì, naturalmente. Hanno sparato le ultime cartucce ieri, 4 appuntamenti elettorali ciascuno, parlo di Donald Trump e Hillary Clinton. Nel cinturone rimane la pallottola d'Algerto, che spareranno oggi, cioè quella del voto, si decidono i destini dell'America, naturalmente anche quelli un po' nostri, perché certo. Insomma, le elezioni americane stavolta sono una cosa importante. Ultimi sondaggi, Clinton ancora in testa, ma Trump capace di rompere il muro di sicurezza della Clinton, che è il cosiddetto firewall, cioè secondo alcuni gli basterebbe conquistare uno Stato che ora è blu, farlo diventare rosso per andare alla Casa Bianca. Vediamo, naturalmente i sondaggi sono una cosa, i voti sono sempre, certo, sempre un'altra. Se succede, va alla Casa Bianca del Donald, se non succede ci andrà Hillary. Lui ha detto che si prenderà una lunga vacanza. Ieri ho visto sia i comizi di Trump sia quelli di Clinton-Obama. Obama è andato in soccorso della Clinton, ha fatto campagna attiva come non mai, molto interessanti, molta gente, molto motivati, gli elettori tutti. A questo punto mi interessano però le vostre opinioni a conclusione della campagna elettorale. Giovanni? Io dico una cosa semplice, dico che una campagna elettorale così lunga, questa telenovela americana impressionante, miliardaria, cioè che costa carissima, penso che non possa più essere in questa forma il simbolo della democrazia, non credo. No. Do un numero, a metà ottobre i due candidati hanno speso quasi $1 miliardo, solo in questa fase di metà ottobre. Hillary Clinton 450 milioni di dollari. Pietrangelo? Io faccio mio un tweet del marchese Fulvio Abate, testé lanciato: Donald Trump è molto più donna di Hillary Clinton. Fulvio. Salamino. Machiavelli, altro che la pira, Giovanni. Non è il sindaco santo di Firenze il modello di Matteo Renzi, ma è il segretario fiorentino Messere Nicolò, da cui il premier delle schiforme, della rottamazione, della disoccupazione altrui attinge la scienza volpigna, cioè è molto più sicuro essere temuto che amato. Lui, insomma, è come Scar. Io sarò il re, seguitemi e non soffrirete più la fame. Il piano è preciso, perfetto e conciso. Altro che Jim Messina, il consulente americano per la propaganda del Partito Democratico, ingaggiato a colpi di €400.000. Renzi resta fedele agli insegnamenti del principe, l'ha confessato a te, Giovanni, domenica scorsa, no? Sì. E non cade nell'errore dei predecessori. Vantaggi a nessuno, e perciò, caro Giovanni, caro Mario, mai più i Canuzzi adottati in diretta come Mario Monti al suo tempo ospite di Daria Begnardi. Mai più la bonomia tortellina di Romano Prodi, mai più il buonissimo burismo di Walter Beltroni e mai più i conigli marrani di Arnaldo Forlani. Ma mai e poi mai, per esempio, il risotto di Massimo D'Alema ai fornelli di Porta a Porta, mai più le sagrestie di Giulio Andreotti e nessuno si sogni di avere regalate le dentiere, quelle che donava Silvio Berlusconi, che era sempre buono coi questuanti, e mai più le buonissime del Bunga Bunga, scienza dell'altruismo, come mai se ne sono avute tra i sette colli di Roma. Erano cene eleganti. E quelle che erano, appunto, cene, offerte, cose, proprio istinto altruista, altro che Jim Messina e i suoi €400.000. No, sti €400.000 ti sono rimasti qua. E €400.000 e fagli scoprire la cosa che lo fa vincere, cioè quella di essere già sposato, insomma, mi sembra esagerato. Ma comunque, non solo, caro Giovanni, neppure più i papi buoni. E non nel senso papi, nel senso del cavaliere, ma proprio nel senso del pontefice. Perché Sorrentino su Sky col suo giovane papa fa incontrare il giovane premier d'Italia e ne ha dovuto inventare uno cattivissimo, molto più temuto che amato. E quindi altro che Jim Messina, perché qui urge il commentario alla prima decade di Tito Livio oppure Gigi Magni con Gigi Proietti, perché Renzi, insomma, è sempre e solo lui. Sono luoghi comuni, come l'altro luogo comune secondo cui io resterò famoso nella storia come il tiranno. Ma perché tiranno? Vabbè, governo senza voto de popolo, perché io er popolo nulo so porto. Vabbè, vabbè. Io l'opposizione non la tollerò. E allora che fo? Ammazzo tutti i senatori dell'opposizione. Vabbè, vabbè. Tratto Roma come mio possedimento personale. Vabbè, vabbè. Non sono il primo e non sarò manco l'ultimo. Vabbè, vabbè, vabbè. Faccio quello che mi pare a me. Vabbè, vabbè, vabbè. Roma sta diventando un bagno di sangue. Vabbè, vabbè. Ma perché tiranno? Questo non lo capisco. Infatti, è bella questa. Mario, c'è ancora una bolla? Sì. Andiamo in Persia. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. Mamma mia, mi sto addormentando. Mamma mia. Questa non è roba mia. Ma chi te l'ha messa? Cioè, questa a quest'ora. Madonna, proprio, mamma mia, vabbè. Vabbè, comunque, movie, sono sbagliati in regia. Dai, vai. Allora, Iran, ragazzi, Persia, sono tornati sul mercato del petrolio alla grandissima, stanno sviluppando. L'Iran nei prossimi anni conta di attrarre 200 miliardi di investimenti nel settore dell'energia, un settore ovviamente vitale per loro. Segnalo che Total, quindi la Francia, e la China National Petroleum, quindi Pechino, stanno per firmare un accordo domani, mi pare, per espandere l'estrazione del gas nel giacimento di South Pars. Ora, il colosso francese mancava dall'Iran da 6 anni. I cinesi con questo accordo confermano la loro espansione geopolitica. Insomma, se fa forse 2 più 2 non fa 4, come spesso capita, ma fa 3 o fa 5. Però una cosa è certa, l'Iran è tornato, la Cina è il vero poi contendente degli Stati Uniti nel gioco geopolitico mondiale. Canzoniere! Cresci e divieni foresta immensa, un più fervido mondo, tutto sbocciato di fiorenti gemme, e tu, linguaggio degli amanti, sii di questa terra la favella. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Mix 24. Hello, I'm Barack Obama. Salve, sono Barack Obama. C'è qualcosa che dovete sapere. Questa campagna riguarda voi, le vostre speranze, i vostri sogni, la vostra fame di cambiamento. Il 4 novembre del 2008 Barack Hussein Obama viene eletto alla Casa Bianca. È il primo afroamericano a diventare presidente degli Stati Uniti d'America. In elezioni senza nomi influenti e dalla partenza incerta, Obama a sorpresa si impone all'interno del suo partito e alla Convention Democratica del 2004 pronuncia un discorso mozzafiato e diventa così uno dei nomi più influenti del suo partito. Non c'è un'America nera e un'America bianca, un'America ispanica e un'America asiatica. Ci sono gli Stati Uniti d'America. Nel febbraio del 2007 la candidatura ufficiale alla Casa Bianca e poi l'ascesa vincente con l'irresistibile slogan Yes We Can. Dai sobborghi, dalle città, dalla parte sud dello Stato, dalla parte nord dello Stato, bianchi, neri, ispanici, asiatici, io dichiaro sì, noi possiamo! Sì, noi possiamo! Il 20 gennaio del 2009, dopo 8 anni di presidenza Bush, Obama giura come 44esimo presidente degli Stati Uniti. Scelto dal Time 2 volte come persona dell'anno nel 2008 e nel 2012, anno della sua riconferma alla presidenza, vince nel 2009 il premio Nobel per la pace. Oggi è il presidente uscente degli Stati Uniti d'America. Mario, c'hai una... piccolo aggiornamento? Sì, vi segnalo sempre un altro posto che abbiamo trascurato in questi giorni, eccetera, la Turchia, dove avete visto tutti arresti di massa, il leader dell'opposizione dentro, un partito curdo che non andrà più in Parlamento, insomma, la moneta turca, la lira, sta praticamente andando giù a rotta di collo. Questo è molto importante perché voi sapete ci sono tanti imprenditori italiani che lavorano in Turchia. E poi c'è la trattativa per l'entrata in Europa, esatto, che mi sembra quindi un po' arenata. Beh, direi chiusa. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. BMJ agosto 2016. Alti livelli di attività fisica sono associati con minor rischio di malattia. Quali malattie? L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda 30 minuti, 5 giorni alla settimana di esercizio fisico, quello che viene denominato il brisk walking, cioè camminare a passo veloce in modo tale che dopo un 5-10 minuti si comincia a sudare. Allora, gli autori hanno esaminato 174 articoli per dare la risposta alla domanda: differenti dosi di esercizio danno effetti maggiori? Nel senso che se l'esercizio fisico è considerato una pillola salvavita, come tutte le medicine, dovrebbe avere un effetto diverso se viene data una dose maggiore. E allora sono stati esaminati in particolare, e quindi ci riferiamo a queste malattie e basta, il diabete, la cardiopatia ischemica, l'ictus e il cancro della mammella e il cancro del colon. Bene, anche l'esercizio fisico ha lo stesso effetto di una pillola, nel senso che maggiori dosi di esercizio fisico hanno un maggiore effetto sul rischio di queste malattie. Si passa infatti dal 3% al 14% di rischio di cancro della mammella diminuito se si aumenta l'attività fisica, lo stesso dal 10 al 21% per il colon e dal 15 al 25% per la cardiopatia ischemica, l'ictus e il diabete. Nel senso che, anche qui, se fai più esercizio fisico hai un rischio di cardiopatia ischemica, ictus e diabete diminuito del 25%. Se fai un esercizio fisico modesto, solo del 15%. Quindi, allora, ha veramente ragione quello che diceva che se l'esercizio fisico fosse comprimibile in una pillola sarebbe il farmaco più venduto al mondo, e anche qui sarebbe il farmaco più venduto al mondo dose dipendente. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto oggi per noi? Oggi una canzone per chi passerà una giornata in cui l'unica consolazione sarà ripetersi: anche se ho perso ancora, ho fatto a modo mio. Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. Sono serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più.